Letture di Radio 24. La Svizzera è un paese di 8 milioni di abitanti che ogni anno riescono a produrre un PIL di 660 miliardi di euro e si colloca all'ottavo posto nella classifica dei paesi più ricchi del mondo. A cosa è dovuto questo miracolo? Per capirlo, bisogna fare un paragone con la Sicilia e la Campania, che messe assieme hanno una popolazione di poco superiore a quella svizzera, scrive il sociologo Domenico De Masi in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del magazine Style. Qui il clima è soave, continua De Masi. La terra è fertile, le opere d'arte traboccano, il mare guizza da ogni parte. Ma il PIL pro capite è un quinto di quello elvetico. I servizi sono penosi, i giovani emigrano. Invece nella Svizzera, che non ha alcuno sbocco sul mare, che scarseggia di capolavori e soffre di un clima infame, i servizi sono impeccabili e i giovani arrivano da ogni parte per lavorare o per studiare. La differenza antropologica a cui si può imputare questo divario è probabilmente il modo con cui le due aree affrontano i problemi. In Svizzera con la testa, nel sud Italia con la pancia. La sfera razionale procede analiticamente, affidandosi a conoscenze tecniche e abilità psicomotorie. Quando scatta il rosso al semaforo di Zurigo, lo svizzero sa che si tratta di un ordine, sa che deve frenare, sa come si frena e dunque frena. La sfera emotiva invece si affida alle atmosfere, agli stati d'animo approssimativi e sfumati, perché è composta da sentimenti, opinioni e atteggiamenti, e fa sì che il napoletano consideri il rosso come un semplice consiglio. Saprebbe pure come frenare, ma decide sul momento, come meglio gli pare, se farlo o meno. La distinzione tra sfera razionale ed emotiva corrisponde almeno in parte a quella tra emisfero sinistro e destro del cervello. Si dice che il primo è il nostro ingegnere meticoloso, che analizza gli stimoli uno a uno. Il secondo, invece, è il nostro poeta intuitivo, che coglie gli stimoli nel loro insieme. La Svizzera è fatta di ingegneri, il Sud Italia è fatto di poeti, ma con la poesia si mangia poco. Insistendo per anni, attraverso l'educazione, i codici, l'esempio e le punizioni, sulla necessità di far prevalere la razionalità, la progettualità, il rispetto delle norme e l'ordine pubblico, la Svizzera è riuscita a diventare un modello di vita basato sulla sicurezza e sulla prevedibilità. Pur senza un'unità etnica, linguistica e religiosa, i 26 cantoni della Svizzera attuale formano una nazione compatta per motivi geografici, istituzionali ed economici. La sua forza sta tutta nel primato che essa assegna alla razionalità e che ci ricorda un personaggio di Moby Dick cui Herman Melville fa dire: «Non mi piace dar mano che a lavori puliti, vergini, matematici. Come si deve? Qualcosa che cominci regolarmente dal principio, nel mezzo sia alla metà e alla fine sia concluso». Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Domenico De Masi, Ricchi di testa, dal numero di gennaio di Style Magazine. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Letture di Radio 24. È in corso ad Agrigento il processo contro i furbetti della legge 104, ovvero medici, insegnanti e impiegati che avrebbero firmato false attestazioni per beneficiare della legge sull'assistenza alle persone handicappate. Ma in tutto questo, i sindacati dov'erano? Si chiede Gian Antonio Stella in un editoriale pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera. Vale soprattutto, continua Stella, per gli spostamenti di insegnanti verso scuole più vicine a casa, avvenuti spesso, se non quasi sempre, denuncia Domenico Navarra, presidente dell'Associazione Insegnanti in Movimento, a scapito di centinaia di docenti di ruolo costretti da tanti anni a lavorare in province diverse da quella di residenza, che inutilmente chiedono il trasferimento nella propria provincia senza riuscire a ottenerlo, perché si vedono puntualmente sorpassati da colleghi che, anche con punteggi inferiori, sfoderano una bella priorità dovuta alla legge 104. Ecco cosa orizzontescuola.it scriveva mesi fa. Si potrebbe obiettare che i docenti trasferiti saranno sottoposti a visita da parte dell'INPS. Vero, però qualora venisse loro revocata la 104, quale sarebbe la conseguenza? Nessuna, in quanto sino ad ora nessuno degli insegnanti cui è stata revocata la 104 è stato rispedito nella regione di provenienza. Sul quotidiano La Sicilia, il provveditore di Agrigento, Raffaele Zarbo, confermava: non c'è una norma che costringa a revocare il trasferimento ottenuto grazie alla precedenza suddetta, nel caso in cui la stessa venga revocata dopo lo stesso trasferimento. In un comunicato, la CGIL siciliana scrive: la truffa sulle false invalidità ad Agrigento per usufruire dei benefici della legge 104 del 92 impone un intervento affinché un diritto non si trasformi in un immotivato privilegio ai danni magari di chi ne sarebbe legittimo titolare. Chiediamo controlli a tappeto per verificare la regolarità delle pratiche. All'atto pratico, però, accusano gli insegnanti sorpassati dai furbetti, i sindacati, soprattutto i confederati, non hanno fatto nulla per scongiurare questo fenomeno deprecabile e neanche per denunciarlo. Anzi, spesso chi si rivolgeva ai vari sindacati per avere un consiglio in merito alle operazioni di mobilità sulla sede da richiedere più vicina a casa, si sentiva chiedere: ce l'ha la 104? E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Gian Antonio Stella, I furbetti trasferiti e i docenti beffati, dal Corriere della Sera del 25 gennaio. Tra i docenti non ci sono solo i furbetti che beneficiano senza averne diritto della legge 104. C'è anche un piccolo esercito di insegnanti che usa trucchi di ogni genere per mantenere il posto senza presentarsi in classe. Ecco alcuni esempi raccontati da Panorama in una lunga inchiesta curata da Maria Pirro. Prima scuola. Il professore di italiano? Non si vede da 7 anni. Gli ho negato l'ennesimo permesso dovuto al dottorato di ricerca all'estero e si è messo in aspettativa, anch'essa retribuita, per assistere la madre a Roma. Quando la mamma è morta, ha usato i 3 giorni di lutto per restare a casa e poi si è ammalato lui. Il 22 dicembre, l'ultimo giorno di lezione. Al rientro, il 9 gennaio, ha presentato un nuovo certificato. Seconda scuola. L'insegnante, assente per motivi familiari, è ritornata il 22 dicembre ed è sparita subito dopo le feste. Le è dovuto dunque subentrare un supplente diverso dal precedente, che con grande fatica ho trovato il 12 gennaio in provincia di Napoli, ma ho dovuto rifare tutto l'orario. Terza scuola. Qui, alle porte di Milano, è andata diversamente. Il titolare è stato in congedo parentale fino al 23 dicembre e ha ripreso il 24 con gli alunni già in vacanza. Al posto suo, il 9 gennaio, è rientrato lo stesso sostituto, pagato anche per il periodo natalizio. Gli studenti, intanto, nelle retrovie in Europa per competenze, si annodano la sciarpa e si sentono meno preparati. Il caso è stato sollevato dalla lettera di una preside sul Corriere della Sera, indirizzata al titolare di una cattedra, assente a sua volta dal 12 settembre 2016. La scuola e noi, ha raccontato la preside, ci siamo impegnati per trovarle un sostituto. Scovata una supplente giovane ed entusiasta il 2 dicembre, l'ho licenziata il 22. Ma il prof è tornato solo per un giorno, dal 9 gennaio altro congedo. Cosa ci è venuto a fare nella nostra scuola il 23 dicembre? Gli ha chiesto Nadia Vidale, dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale Severi di Padova. Raggiunto dal Corriere del Veneto, si è scoperto che l'insegnante, proveniente dal sud, è anche commercialista e con la scuola ha un contratto part-time. Certo, tutto è perfettamente legale, così come è giusto che lo Stato tuteli chi, per motivi seri, non può presentarsi al lavoro. Andrebbe invece perseguito chi abusa di questi diritti e lo fa a volte grazie a medici compiacenti, interviene Paolino Marot, presidente dell'ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Storie di legalità solo formale, aggiunge, sono diffuse e non per questo meno scandalose. Innanzitutto per chi tutti i giorni ci mette l'anima in questo lavoro e questi colleghi sono la maggioranza, una maggioranza silenziosa e operosa. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo «Il professore fa il furbetto» da Panorama del 13 gennaio. E nel paese di santi, poeti e navigatori potevano forse mancare i furbetti della pesca? A Capo Teulada, nel Cagliaritano, c'è un immenso poligono di tiro, 7200 ettari a disposizione dei militari per le esercitazioni. Di conseguenza, nei 450 km di mare attorno a questa penisola, la pesca è vietata tutto l'anno. I pescatori della zona, impossibilitati a lavorare, ottengono dal Ministero della Difesa un risarcimento che va dai 12 ai 15.000 euro l'anno. Una cifra consistente che ha richiamato in zona un piccolo esercito di finti pescatori che hanno spostato qui la loro residenza per ottenere gli indennizzi. Per risarcire i pescatori sardi, il Ministero sborsa ogni anno svariati milioni di euro, scrive Nicola Pinna in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla Stampa. La cifra cambia a seconda delle giornate di sgombero, cioè sulla base dei giorni effettivi di esercitazione. Nel 2015 abbiamo raggiunto gli 8 milioni di euro, spiega il generale Giovanni Domenico Pintus, comandante militare della Sardegna. Questo indennizzo viene riconosciuto a tutte le marinerie che operano nei pressi delle basi, ma il 72% va agli operatori che risiedono nel Sulcis. E da queste parti, infatti, continua Nicola Pinna nel suo articolo, l'elenco dei pescatori cresce sempre. 82 in più nel 2014, altri 100 nel 2015. A Sant'Anna Arresi e Teulada le richieste di residenza aumentano ogni anno, proprio per incassare gli assegni della difesa. Per ottenerli basta una semplice autocertificazione. La Procura di Cagliari ha fatto scattare un'indagine. Nel giro di 2 anni sono stati denunciati in 35, ma gli uomini della Polizia Militare e dei Carabinieri continuano a lavorare. Dagli accertamenti fatti finora emerge che tra gli imbarcati c'erano anche casalinghe e anziani, spiega il tenente colonnello Ivan Giorno. Poi sono venuti fuori i casi di pescatori veri che hanno inserito nell'equipaggio tutta la famiglia e di pescatori finti che in mare non ci sono mai andati. In più abbiamo verificato che gli indennizzi venivano incassati anche da persone che contemporaneamente percepivano la disoccupazione. Sotto inchiesta poi sono finiti anche alcuni vigili urbani, accusati di non aver mai verificato che i pescherecci indennizzati fossero davvero ormeggiati nei porticcioli della zona. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Nicola Pinna «Finti pescatori per gli indennizzi». Il business che ripopola il Sulcis. Dalla Stampa del 25 gennaio. Assemenato in mare, prenda mia estimata, noisco proite di vetto, prenda mia estimada, de uno so più snodda. I miei pensieri sono erba, i miei pensieri sono erba, altri sono nuvole, altri sono nuvole, altri sono spine. Escrio sobre as ondas de su mare. Escrio sobre su vento, ammenta di de me. Es benito si stio, su vento, se pesado, ma in sade. Fala da solo pazza, prenda mia estimata. L'isola del silenzio, noisco e l'ancora, proiette di vaeddo in mezzo al mare. Prenda mia estimata. Silenzio, ammenta di me. Vento. assieme nado in mare. Silenzio. Assieme nado in mare. Silenzio. Assieme nado in mare.